comprartelo, di comprartelo su eBay da qualche parte. Cioè, ce l'ha fatto farti un lavoro, te l'ha bruciato, però era il suo, non è il tuo. Ti parlo di, minimo sono 35 o 40 anni fa. Ah, ok, pensavo roba recente. Però io già mi arrangio un po' a fare questi lavori qua, sì. Però pur su cose più complesse, logicamente ci vuole un tecnico specializzato. Adesso io devo trasferirmi tutte le modifiche che c'ho, me le trasferisco nel conto. In questo qua nero, piano piano letto, mi sto facendo tutte le foto, me lo sto studiando e mi metto all'opera fra poco. Non oggi, fra poco. Quindi modifiche di circuito, cose varie, così, o solo regolazioni? No, devo trasferire la scheda, le conti, tutte quelle modifiche che mi ha fatto Roberto Rapido a Cagliari, io me le devo trasferire in questo qua. Infatti l'ho comprato uguale proprio per quello, per recuperarmi tutte le modifiche, capito, almeno quello. Le schede già le trovi su internet, no? Scheda Echo, come si chiama? Scheda Colt, BIP varie, cose varie. Anzi, il BIP ce l'hai già, mi sembra. Sì, ma sono tutte elaborate, capito? C'è la Colt per nascondere dei componenti, sono modificate, sono delle schede modificate, però io devo solo staccare tutto il cablaggi e ricollegarli a sua volta in questo apparecchio che sto modulando. Ah, proprio fai un cambio di apparato devi fare. Cioè tutte le modifiche le togli da uno e le inserisci sull'altro, così. Non sei uscito adesso. Perché ne sta facendo il giallo, aspetta. Sì, sicuramente qualche fila si sta staccando. Adesso l'ho messo un giro in altro, guarda se ne esca ancora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e poi mi divide questa amplificazione, se è buona o è debole, per quello stavo cercando a Luca, così mi faceva la registrazione su WhatsApp, me la faceva sentire, conta che sono quasi, cioè, sono più di 40 centimetri lontano. No, ti sento benissimo, non sento rumori di fondo, quindi non so se ci siano rumori di fondo, diciamo, in casa, perché non si sentono, quindi se ci sono non te li amplifica. Ecco, adesso no, vabbè, c'è silenzio perché stanno riposando, adesso devo andare anch'io a dormire perché alle 4:15 suona la sveglia, docetta e vado al lavoro. Adesso vediamo un pochettino se senti il cane abbaiare, vediamo un po'. Billy, chi c'è Billy? Chi c'è Billy? Chi c'è? Chi c'è? Va bene, l'ha tratta il cane, Sì, si sente forte, si sente. No, bisogna vedere, tipo, non so, la televisione, roba così, no, non molto alta, se si sente. Tipo, a volte c'è Natalino, che non so se lo conosci, tanto quando c'è la televisione accesa si sente tutto, C'è un bel microfono, non so se usa il Tanner lui, se non sbaglio. Mi sembra che sia un po' più un Tanner, un vecchio Tanner. Positivo, guarda, aspetta un attimo, adesso vediamo un attimino dall'altra stanza la piccolina, la chiamo di chiamare a babbo, vediamo se la accendi. Chantal, chiama a babbo. Chantal, chiama a babbo. Chiama a babbo. Chantal. Comunque qualcosa ho sentito all'inizio, qualcosa diceva, non capivo cosa diceva, però sentivo la voce di una bambina. Mi ha copiato. Cosa hai sentito? Sì, ciao babbo. Almeno di più di 10 metri da qua, dal microfono. Quindi va bene, dai. Poi non deve essere troppo, sennò ti porti appresso un sacco di bailame. Sì, deve amplificare, ma non più di tanto il microfono. si sente, amplificato o no? Dico, la mia modulazione come si sente? Amplificata o normale? È buona, è buona tua modulazione. Aspetta, se trovo qualche musica da mettere col cellulare, eccola qua. La metto bassa se si sente, aspetta, eh. Allora, se io passo la gamba, adesso la facciamo casino tutti e due, la grande e la piccolina. Si sente? Sì, bella lancetta che si muove. Aspetta, abbasso ancora. Sì, si sente anche adesso, dai. Mi sento forte. Ma tu, ti ripeto, forse il segnale più forte che mi arriva per il momento. Sì, K, adesso sono liscio, Anzi, addirittura questo apparecchio gli ho abbassato i watt per pilotare quella roba là. Ah ok, sì, adesso è abbassato parecchio il segnale. Prima ieri mi arrivavi sullo zero, oggi sei 9 più quasi più 25, vai, io quanto ti arrivo. Prova? Sì, proprio 30 staccato, tra il 3 e lo 0. Aspetta, controllo se. No, non si è attenuato, quindi è giusto. 9.30. Va bene, comunque ancora qua sono per Fabio, adesso devo sistemare un po' il tutto, c'ho delle cose in arrivo, lo mettiamo su stazione con tutti i tempi. Però devi abbassare perché sennò staremo a mando di brutto, o parli da lontano. Adesso mi è arrivata la scarica del QRM, sicuramente ecco, è affidabile a loro che c'ho vicino, ho detto vicino al parco su. Parco Giardini, dove sono? Giardini, e c'ho una cabina che dentro ci sono, mi sembra, adesso mi ricordo c'è la 15.000 volt, però ogni tanto mi fa interferenza. A me, io ho questa antenna, c'è una finestra, proprio passa in mezzo tra le varie pompe di calore fino su, dai, fino a sotto il cornicione. E quando accendono, sicuramente sono anche vecchie, di vecchia concezione, e un po' di QRM me lo fanno, quelli bassi, no? Tipo quelli che mi arrivano a Santiago 1 o 2 non li sento. Poi se uno arriva forte, no, 7, 8, 9, quelli li sento ugualmente, però si porta appresso tutto il QRM. Positivo. Allora, che ne sono adesso? Di nuovo mi fumo una sigaretta e mi sdraio, ritrovo la mia altra doccetta. Sì, però poi mi sto studiando quell'apparecchio, quello che c'ho incidentato. Cioè, guarda, dico, sono i finali che c'hanno, però la costa una barca di soldi, infatti quando partono i finali ho una pezza di fusione dietro. Di solito mettono sempre quelli, gli altri cinesi di concorrenza, per risparmiare, sono dei transistor, sono dei vesi, non sono i finali motore originali. Infatti non erano neanche tutti quei watt che levano quelli lì. Purtroppo in giro molti tecnici usano quelli lì, risparmiano soldi, però domani te li fanno pagare come buoni, come Motorola, invece li pagano una fesseria loro, quei componenti lì, e durano il tempo che trovano. E allora, ma infatti io ho riscelto di riprendermi la stessa radio, uno perché comunque sia il presidente Jackson è l'ultimo a radio, funziona benissimo, cioè, diciamo non prende neanche tanti colpi, perché io all'epoca c'avevo a Claudio vicino, era l'unico che mi faceva un po' di abbattimento, c'eravamo molto vicino, e usciva forte alla grande, vicino a casa di mamma, e poi del resto non mi dava problemi nessuno. Ma se ti metti un 48 in casa ti stai ammazzando da solo, chiunque in macchina anche a distanza di chilometri ti dà problemi, ti fa battimento, sblattera, e lui lascia perdere. No, anch'io, questo qua è molto selettivo come apparecchio, cioè al massimo poi ti posso sentire da un canale all'altro, ma poi dal secondo giro al terzo non sento più nessuno, anche segnali forti. Sono lontano da parte dell'età, ma forse adesso comunque con questo cavetto che ho fatto io adesso li attacco. Un altro sarebbe il maschio, che è quello che ha attaccato dall'apparecchio, che ha le punte, però li attacco quello a 4, così io posso utilizzare tutti i microfoni a 4 poli. E allora, ma tanto ora che fai, visto che ce l'hai tutti uguali, poi lo puoi usare per qualsiasi... Guarda, che hai trovato già la combinazione giusta, te la segni, te la riporti sulla presa e ci attacchi i tuoi microfoni. Anche perché tutti i microfoni che ho qua adesso vedo, guardati, ce ne sono un bel po', ci sono la CTE, c'è un altro Intec preamplificato, però la mattina non è mezzo, quello non posso mai provare, quello voglio provare. Ne ho tanti, li metto tutti con la stessa cosa, cioè la prunghetta, e quando, per dire, voglio avere, stacco tutta la prunga e ci metto il microfono originale President a 6 poli. Sì, allora, è così, io qua ne ho due attacchi. Cioè, vabbè, un vecchio valvolare, però che c'ha il suo microfono, cioè non è proprio il suo, è stato adattato, c'è un microfono della Pace, un vecchio Pace. L'apparecchio invece è un valvolare, è un Jamtronic, credo che c'è negli anni 60, boh, 60-65. Scalda come un demonio, ci puoi cucinare la carne di cavallo sopra. È un GTX 5000, 40 canali, mi sa che abbia 8 o 9 valvole all'interno. Carino, eh? Adesso mi deve arrivare, dopo un'ora deve arrivare un valvolare, però non è un baracchino. Ah, ho capito. No, l'altro invece, quello è un transistorizzato, si accorda da solo, ha 6 potenze, è un 507, non so se lo conosci. Il 507, ma della ZG o della CTE? ZG, V507. C'avevo un furgone qualche anno fa, quello lì, con la bombetta. No, questo è a 220. Allora c'era una versione anche che andava a 12, della serie 500, però adesso non mi ricordo se era 507 o comunque col 500 ho cominciato. Secondo me il trasformatore che c'è all'interno è leggermente sottodimensionato, infatti molti li fanno qualche modifica, glielo mettono più potente. Aspetta, mi guardo il cellulare a vedere se mi ha risposto da lui. Facendo il led che ho qua dentro il mobiletto, mi sa che correbbe lo stesso. Sì, ieri sono passato davanti di tipo Conforama, dove non senti più nulla, anche al centro di Alghero, dove usano quei led non senti più niente, ti sollevano il QRM 8-9 in città. Quella che cos'è? Chiamava la pesca? No, quell'altro giorno l'ho presa male e mi si è troncata in due, capito? Adesso c'ho un attimino di macchina. Ma come ha fatto a rompersi? Perché c'era troppo peso dietro, uno ha preso la metà, siccome ce ne sono due le antenne, una dentro e una fuori, capito? Due chiamate, una dentro e una fuori. Quella che era dentro la dovevo sfilare e metterci l'altra perché quella di dentro non andava, non funzionava. Schiumata era l'antenna, con la schiuma dentro. Ah, negativo, perciò non l'avrei potuto attirare, perché ancora ero in fase di allestimento, diciamo, dovevo essere certo che l'antenna era accordata e tutto quanto, per poi magari schiumarla e moriva dentro. Ecco, soltanto che, vabbè, due antenne, non penso che lavorino bene, perché tende a male a accoppiarsi con l'altra, La prova la devi fare con la canna pulita, senza niente dentro, dai. Sì, vabbè, ma una era attaccata, era solo infilata dentro, ma mica la stavo utilizzando. E l'altra era attaccata fuori, però mi dava un po' di saturazione, diceva la faccenda, quindi non avevo... No, ma si può accoppiare anche senza essere attaccate una all'altra. A volte la frequenza è strana, no? Può entrare nell'altra antenna che c'è vicino. A volte si accoppia anche a un palo di ferro, e di quello che trova l'antenna si può accoppiare. Bravo, un attimo di bianco, è stato bene l'ultima la roba. Lei capa. Franco. Sì, dimmi. Stava, non so se la passeggia, comunque mia moglie ha avuto la barra in tutto. Ma aspetta che guarda anche qua. No, qui c'è attaccato forte, la pone bagnato tutto. E anche qua un po', qualche goccia l'ha fatta. Anche noi abbiamo acceso stamattina. Però mio figlio, meno male, era in casa, l'ha ritirata prima che si bagnasse. Ehi, a Luca, ha visualizzato o non è entrato là? Ascoltavo, così mi mandava un audio su WhatsApp. Non lo so, in genere già entra, Ragazzi, neanche 4 watt sto usando adesso, 3 qualcosa. Il fisco va a 4,5. Sì, quasi 25, vai. Quasi 25. Comunque io c'ho poco piano di massa, c'ho stato l'aria. Se metto una bel pezzo di lamiera anche attaccato per appoggiare tipo come funge la capota, no? Perché se no anche la radiomacchina dovrebbe andare molto meglio. Perché stai uscendo senza talarlo? Come fai a sapere che c'è stato l'aria? Sì, c'è uno strumento attaccato, come ha dato Roberto Quadrato, perché io non lo trovo, non riesco a capire dove c'è andata a finire. Però non riesco a regolare lo stilo perché la chiavetta non entra, né la 2 né la 2,5. La 2 è troppo piccola, la 2,5 è troppo grande. Quindi devo cercare di levarmi questa vittina e cambiarla. Quella è a Brugola, sono, che antenna è? Una Sirio, cos'è? Una Magnum della LEM, Magnum 27. Più o meno sono tutte uguali, hanno delle due brugoline, dai. No, una brugola c'ha. No, la mia è a 2. E da poco una mi si è spanata lo stesso, anch'io l'ho cambiata, E come ho fatto a trovare la vita? L'ho trovata. Beh, senti, non dico cosa ci credi. Ho fatto una traversata in nave. Praticamente c'era questa specie di bordino nel lavandino con queste brugoline, una era mollata, l'ho tolta e l'ho presa, la verità. Beh, sai che va benissimo. Ah, vai, è uguale, lo stesso passo. Uguale, la stessa chiave e stesso passo. E se no va piccola, E tanto, ma prima che ne cade qua se ne va nel lavandino, l'ho tolta. Praticamente per questa vite reggeva una specie di parabordo in acciaio, no? Che ho fatto una trafila sottile da 4, da 3 mm e veniva bloccata con questa brugola qua. Se deve essere mollata, ne stavo uscendo, che non avevo chiave per toglierla. Se avessi avuto la chiave le avrei prese tutte. Ma devo cercare, vabbè, comunque non ho problema. Lascia me la porterà. Sono stato fortunato, però non so se si trovano queste. Penso di sì, da qualche ferramenta, A volte ce l'hanno questi utensili dove bloccano le punte. Ascolta, ma non ho più il mercato da quando ho messo un attesolante in quei fili che ho infilato così. No, negativo. Perché beh, tocca le fili, sono molto fini, lì entri con l'attacco a 4 punte che sono più larghi, quindi magari qualcuno ballava e tendeva a innescare. Certo, no, va bene. Ti salvi una bella presa e si è a posto. sei a cavallo. No, stai facendo bene adesso, dai, ripeto, se non altri molto l'amplificazione va bene, non rimbomba, è una radio di 5, perfetto. Va bene, e vabbè, comunque questi alla 16 tengono, sono in una linea economica, sono microfoni che uso in macchina. Sono sempre stati un po' cupi, dai, diciamo, come cose. Invece l'MB più 5 c'ha i toni regolabili e se lo metti come vuoi tu. Non lo so, dipende sempre dall'abbinamento, a volte esce bene, anche lei, a volte preferisco l'MB più 4, che va meglio, non lo so. Dipende, ripeto, dipende dall'abbinamento tra microfono e apparato. Mi adesso lo sto chiamando a Luca Ariello, vediamo se mi risponde. Allora qui adesso c'ho il QRM, ah sì, e deve essere quella cabina che c'ho a fianco. Ma strano che venga così, però no, a ondate, non è fisso. No, guarda, adesso è a uno il QRM. Sarà qualche altra cosa, non c'è niente, nient'altro vicino. E vabbè, più di solito nella cottura, non lo so, infatti, perché magari ti avrebbe dato sempre lo stesso problema fisso, io penso, una cabina elettrica, la tensione è sempre quella, invece c'hai questo vai e vieni, diciamo, di turbo, può essere un'altra cosa. E c'è anche il filtro inserito, se non il filtro ci sentiamo di più. Filtro quello NB, come si chiama? ANL, cos'è? È positivo quello lì. Ieri era un apparecchio che si assomiglia a questo, io ho un samurai. Adesso mi viene in mente il samurai. Comunque io mi sono sempre trovato bene col presidente Jackson. E ti ripeto, quando mi manda la terra vuol dire a fuori quasi 40 watt con 13,8 volt con i finali originali, leva quasi 40 watt in manda laterale. No, questo del samurai esce con antiuscita perché l'ho passato con 10 watt se non sbaglio. Invece il Galaxy che lo uso in macchina, quello esce con 20, quindi provate voci tu che in banda ne dia 40, però dietro c'ha il dissipatore, questo invece non è, Sì, questo qui c'è il dissipatore dietro, un bel dissipatore per raffreddare un po' i finali. Sì. Dai, io ti devo salutare, mi ha fatto piacere scambiare le chiacchiere, perché fra poco mi sono alla sveglia, devo riposare. Un'oretta, un'oretta e un quarto, faccio la doccia e poi a lavorare in pizzeria. Bene, dai, buon lavoro, allora buon riposino, ci aggiorniamo alle prossime. Ok, ciao. E via, quando senti a Luca, ti dico lo stavo cercando. Va bene, ci sentiamo presto. Ciao, correti da parte mia. No, anche io chiudo, dai, anche io mi riposo un po'. Ci sentiamo alle prossime, più tardi o domani se coincide, dai. Ok, ok. Ciao Franco. È andato bene, uno e uno c'ho adesso. Allora va bene, allora non c'era un problema, e tirai va dentro. E allora, entra a Naira, devo essere il lupo. Sì. Allora, siccome ti è destruita, non è o stazionario.